Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Sono le 11:10. La puntata di oggi prende spunto da una mail arrivata in redazione. Vi scrivo perché per caso ho incontrato l'agopuntura e qualcosa è cambiato. Il mio medico curante me l'aveva suggerita per l'insonnia, forse anche per il mal di testa. Adesso non ricordo perché l'anno scorso le avevo tutte. Gli esami erano perfetti, ma io mi sentivo uno straccio. Così seguo il consiglio del mio curante e mi rivolgo ad un medico specialista in agopuntura. Faccio un ciclo di 10 sedute. Gli aghi fanno effetto, io sto meglio e contemporaneamente capisco che oltre il sintomo c'è di più. Scopro che c'è una medicina antica nata in Cina, capace di tenere strettamente legati corpo e mente, organi ed emozioni. Ho scoperto che il fegato non serve solo a depurare, che i reni non sono solo organi di filtro, che il cuore per battere ha bisogno anche di amare. Già solo l'idea mi fa stare bene. Provare per credere. Ezio, così si firma il nostro ascoltatore, parla della medicina tradizionale cinese. Se voi la conoscete, l'avete provata, chiamateci. Se invece siete curiosi di conoscerla, oggi potete soddisfare la vostra salutare curiosità ponendo le vostre domande ai nostri ospiti. Vi ricordo il numero verde 800 24 00 24. I messaggi, come sempre, al 349 238 6666. In studio qui con me il dottor Maurizio Corradin, medico, esperto di medicina tradizionale cinese e direttore del comitato scientifico di Lefei Resort. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie. In linea abbiamo anche il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. Dottore, le è capitato di suggerire, proprio come ha fatto il suo collega, il nostro ascoltatore, ad uno dei suoi pazienti di affidarsi alla medicina tradizionale cinese, di fare delle sedute di agopuntura? Sì, l'agopuntura direi che rientra ormai anche nel mio arsenale terapeutico. Non sono un esperto, mi affido a degli esperti, però in alcune situazioni ho trovato effettivamente un risultato ed un giovamento. Quindi è una cosa che consiglio anch'io. I miei due ospiti, sono certa, conosceranno la sorte che toccava i loro colleghi nell'antica Cina. Il medico di famiglia veniva licenziato se uno dei suoi componenti si fosse ammalato. Dottor Corradin, questa la dice lunga. Molto probabilmente ciò accadeva perché nella sua forma tradizionale la medicina era soprattutto preventiva, o sbaglio? No, esattamente così. Lo scopo, uno degli scopi almeno della medicina tradizionale cinese, che non è solo l'agopuntura, è anche l'agopuntura, ma si tratta di diverse tecniche, era proprio quello di preservare la salute. E la prima caratteristica è proprio questa: cercare, adesso si parla molto di life learning, cioè di insegnare a vivere, e la medicina cinese è una di queste medicine life learning, cioè nel senso che cercano e aiutano a stare nel miglior modo possibile. L'ascoltatore nella sua lettera parla di una medicina capace di guardare al corpo e alla mente come ad una cosa sola. Ma la medicina tradizionale cinese è molto attenta anche al rapporto tra uomo e ambiente. Un approccio, direi, che a distanza di secoli si dimostra estremamente innovativo. Ma io voglio farvi sentire un breve estratto di un libro di Luigia Leliglio e Daniela Caruso, Corpo e salute nella tradizione della Cina antica, Aracne Editore, che ci offre ulteriori spunti. Nell'antica concezione cinese, il corpo umano è fatto a immagine di un paese. Vi sono montagne, fiumi, case e abitanti. Proprio come uno stato, è amministrato da signori e funzionari. Il cuore è il principe che governa attraverso lo Shen. I polmoni sono suoi funzionari e promulgano le norme. Il fegato è un generale che organizza strategie. Quindi le funzioni del corpo sono gestite da amministratori che governano, bene o male, come i funzionari imperiali. Queste premesse di rapporto armonioso tra uomo e natura, proprie della civiltà orientale, in Occidente le ritroveremo in Leonardo da Vinci, che pensò alla città come un organismo vivente che nasce, cresce e può morire soffrendo, come ogni organismo, di determinate patologie, su cui è possibile intervenire con cure appropriate. Forse anche per questa ragione, Nietzsche ebbe a definire Leonardo il primo intellettuale dell'Occidente rivolto a Oriente. Medicina cinese, medicina ufficiale, due approcci che per strade diverse mirano ad un obiettivo comune, la promozione e il mantenimento della salute e del benessere dell'individuo. Oggi sottolineeremo le differenze, ma anche i punti di contatto e le possibili sinergie. Allora, iniziamo a pensare al corpo umano come a questo paese magnifico, no? Con montagne, fiume, case, abitanti, come uno stato in cui ciascun organo, quindi mi riferisco al cuore, ai polmoni, al fegato, alla milza, ai reni, ha il suo compito, e lo confronteremo con la lettura della medicina occidentale. Dottor Corradin, iniziamo da lei. Allora, questo brano che abbiamo sentito viene proprio da una parte classica della medicina cinese. Già nel IV secolo avanti Cristo, il nostro testo classico di riferimento, che si chiama Domande Semplici, parlava ad un capitolo specifico, parlava proprio, faceva questa analogia. Il corpo come l'impero cinese, come l'impero cinese aveva un cuore, aveva un imperatore che regolava, che regnava su tutto il regno, nello stesso modo esiste all'interno del corpo umano qualcosa che lo regola. Del resto questo viene da una caratteristica costante della medicina cinese, che è l'analogia e il simbolismo. Quello che accade all'interno dell'organismo accade all'esterno. È per questo che ci sono 365 punti di agopuntura, come i giorni dell'anno, 12 meridiani, come i mesi dell'anno. La medicina cinese usa l'analogia, usa la relazione fra l'uomo e il mondo che lo circonda. Dottor Gargiulo, la nostra medicina invece... Ma la nostra medicina è sicuramente un po' meno, una visione un pochino meno legata al percorso della natura, però la visione olistica ormai si sta riproponendo in modo definitivo. Noi non abbiamo più la possibilità, cioè noi non curiamo più le malattie, ma finalmente curiamo il malato, l'individuo, la persona che è affetta da una patologia che poi si riflette su tutto il suo essere. Io non ho mai visto una persona che soffre di calcoli al fegato che non abbia un atteggiamento piuttosto cupo, piuttosto teso verso se stesso, quindi all'interno, perché effettivamente i calcoli al fegato e i dolori che può dare una calcolosi della colecisti incidono su tutto l'organismo. E questo in genere quando vediamo che magari alcune situazioni patologiche poi si accompagnano con una depressione, con momenti di tristezza particolari, o viceversa quando il paziente depresso ha un sistema immunitario che funziona meno bene. Quindi allargando un po' la visione, allargando il campo, come il buon medico di famiglia dovrebbe saper fare, possiamo riuscire a controllare il nostro individuo nella sua complessità, nella sua interezza, e questo ci riavvicina un po' alle medicine tradizionali. Dottor Corradin, il dottor Gargiulo me l'ha servita su un piatto d'argento. Io vorrei proprio parlare del fegato, ma parleremo anche naturalmente di polmoni, milza, pancreas, anche di agopuntura, avverto subito i miei ascoltatori che mi stanno scrivendo, per capire un po' queste differenze. Il fegato è un organo molto importante, voi avete una lettura della medicina tradizionale cinese, ha una lettura un po' più ampia, diversa rispetto alla nostra. Che cos'è il fegato e come si fa a farlo stare bene? Come si diceva prima, il fegato è un generale, si occupa delle difese dell'organismo. Quindi il fegato della medicina cinese ovviamente non è, supera ed è più ampio, coinvolge anche tutto il sistema neurovegetativo della medicina occidentale. Però per tornare al punto, il fegato della medicina cinese si ammala, soffre nei momenti di ira, di nervosismo, di collera. I classici, già nel IV secolo avanti Cristo, sottolineavano che c'è una risalita delle energie in alto. Compaiono quindi mal di testa, occhi arrossati, dolori alle spalle, tutta una serie di sintomi che sono proprio legati a questi. Inoltre i classici ci dicono che il fegato fa fiorire, cioè fa fiorire l'energia del corpo. Diciamo che il fegato, in modo un po' analogico, simbolico, se volete un po' poetico, passatemi il termine, è l'organo della rinascita, è l'organo che fa fiorire, quello che permette, come alla primavera, di far rifiorire la vita. La collera, il nervosismo, anche un'alimentazione squilibrata, determina un'alterazione di tutto questo. Compaiono quindi dei sintomi fisici da un lato e dei sintomi psicologici, proprio come espressione dell'incapacità dell'energia di fluire nel corpo, e compare quindi ansia, depressione e sintomi di questo tipo. Cosa bisogna fare? La caratteristica, il fegato per la medicina cinese è collegato ai muscoli. Quindi una delle caratteristiche fondamentali per il fegato energetico, quindi per il fegato cinese, è fare una corretta attività fisica. Questo attiva la funzione del fegato e regolarizza il suo stato energetico. Dottor Gargiulo, sono delle indicazioni queste che potrebbero essere applicate, come lei anticipava, anche dal medico di famiglia? Assolutamente sì, ma se lei pensa che il nostro fegato è praticamente attraverso un meccanismo che è un po' complesso, ma che si chiama glicolisi o gluconeogenesi, a seconda di quello che vogliamo intendere, produce l'energia che fa funzionare i muscoli, guardi come ci riavviciniamo alla medicina tradizionale cinese con le nostre conoscenze. Ecco, io credo che questo sia estremamente importante, cioè prendere quello che la tradizione e la medicina cinese è millenaria, ormai ha una tradizione importante, e riportarlo sulle conoscenze scientifiche che noi abbiamo, senza atteggiamenti preconcetti o preconfezionati. Bisogna riuscire a prendere il meglio da una parte e dall'altra, il meglio della comunicazione, che è proprio dei medici che praticano medicine complementari, insieme al meglio della scientificità che fa parte del nostro patrimonio di occidentali, per ottenere quello che poi vogliamo, che il risultato finale, che è quello di dare la salute, di restituire la salute quando è possibile, o di far convivere con una malattia cronica il nostro paziente nel modo migliore possibile, il nostro utente nel modo migliore possibile. Dottor Corradin, da quanto lei ci ha detto, partendo dal fegato, ma la stessa cosa si potrebbe dire dei polmoni, noi possiamo tradurre: oltre al sintomo c'è di più. Sicuramente i polmoni, sempre ovviamente alla lettura energetica, sono, come nel caso occidentale, ciò che ci permette di respirare, però hanno una funzione più mentale. I polmoni sono la nostra capacità di stare nel qui e ora. I polmoni rappresentano ciò che ci permette di mettere ordine nella vita. Quindi, da un lato, la capacità di mettere ordine nella nostra vita, la capacità, come nelle tecniche di meditazione, di stare nel qui e ora, e la capacità di sentire il proprio respiro, che non è semplicemente il fatto di respirare, prendere i profumi sottili della vita, rappresenta ciò che fa vivere e stare nel miglior modo possibile il nostro polmone energetico. Mentre la milza è anche interessante, vero? La milza pancreas della medicina cinese è, da un lato, dal punto di vista psichico, la sede del pensiero, la nostra capacità di sentire le nostre esigenze interiori, di alzarci in piedi e di verbalizzarla. Dall'altro è quella funzione, come nella medicina occidentale, che si occupa della trasformazione, quindi della digestione. Ma quando parliamo di una buona alimentazione, non parliamo semplicemente del mangiare, parliamo anche ovviamente del cibo, ma parliamo di tutto ciò che di cui possiamo alimentarci. Quindi significa andare a un museo, andare al teatro, fare tutto ciò che ci permette nella nostra relazione con il mondo, per prenderci dei buoni cibi che ci facciano, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista psicologico o, se vuole, mentale, stare nel miglior modo possibile. Insomma, non di solo pane. Esattamente. E arriviamo al cuore. Il nostro ascoltatore dice che per funzionare bene ha bisogno anche di amore, inteso come passione, interesse. Esattamente. Per la medicina cinese, nel cuore alberga lo spirito Shen, che è il grande direttore d'orchestra che regola tutti i movimenti del corpo. Quindi, mentre nel mondo occidentale si tiene una grande separazione fra spiritualità, corpo e mente, la medicina cinese è molto imbricata. Il cuore ha bisogno, da un lato, di fare il vuoto di cuore, cioè cercare di avere il minor numero possibile di preoccupazioni, e poi lasciare andare le emozioni, quindi amare, che non è solo l'amore erotico, ma è l'amore nel senso più ampio, cioè la passione nel vivere. Allora io chiederei a lei e anche al dottor Gargiulo, alla luce di quanto ci siamo detti, mi aiuti lei, dottor Corradin, ma chiederò anche così una mano al dottor Gargiulo sull'approccio della medicina ufficiale, a capire quali sono i segnali che una persona attenta alla propria salute non dovrebbe trascurare, dovrebbe riferire al medico di medicina tradizionale cinese, al suo, magari durante una visita per un'agopuntura, e lo stesso poi lo chiediamo al dottor Carlo Gargiulo. Noi abbiamo detto che la medicina tradizionale cinese vuole occuparsi, è una medicina che vuole occuparsi di prevenzione, di farci stare bene. Allora, quali sono i segnali che non dobbiamo trascurare? Nella descrizione degli organi ne mancava uno, che erano i reni. Sì. Mi aggancio a questo per rispondere alla domanda. I reni sono la nostra forza, la nostra radice, la nostra capacità di vivere appieno la nostra vita, ma è anche la capacità di fare silenzio, la capacità di ascoltarsi, di sentire tutti i rumori, tutti i suoni che avvengono all'interno dell'organismo. Quindi Per rispondere alla domanda, tutti quei piccoli sintomi che vanno dal mal di testa quando comincia a diventare più frequente, ai disturbi digestivi, all'insonnia, al fatto di dormire poche ore, a una stanchezza nei diversi momenti della giornata, sono tutte delle spie che, se le leggiamo in medicina come medico occidentale, ovviamente non sono malattie, ma questo si inserisce nel discorso più ampio. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute non è l'assenza di malattia, è un completo stato di benessere psicofisico. Quando si accendono queste piccole lampadine a cui accennavo, è il momento di fermarsi e di riflettere su se stessi. Dottor Gargiulo? Eccomi qua, sì, sicuramente sono d'accordo su questa idea del poter stare attenti a tutte quelle che sono le variazioni e i segnali, e sono tanti, che il nostro organismo ci invia. Attenzione ovviamente a non diventare d'altra parte ipocondriaci, cioè troppo attenti e con la paura della malattia. Però effettivamente noi siamo di fronte a situazioni nelle quali un cuore che batte più in fretta, magari un battito che salta, oppure un respiro che non è normale come quello che noi abbiamo quando stiamo in tranquillità, ancora una sensazione di stanchezza eccessiva, insomma tutti segnali, piccoli segnali che, se riferiti al medico, possono essere di grande aiuto per poter identificare l'eventuale presenza di una malattia, di uno stato patologico, sia pure iniziale. E quindi questo è estremamente importante per capire come stiamo. Dottor Corradini. Volevo solo aggiungere un'ultima cosa. Ovviamente siamo perfettamente d'accordo. Quando si dice di stare attenti ai propri segnali, non è tanto per riferirli al medico. Quando si tratta di piccole cose, tutti vorremmo non diventare ipocondriaci, ma è per comprendere che forse dobbiamo cominciare a cambiare la nostra qualità della vita. Quindi è una presa in carico della nostra vita. Il rene della medicina cinese è la nostra capacità di renderci conto di come stiamo e della nostra capacità di apportare noi in noi stessi quei piccoli cambiamenti nello stile di vita, nella qualità della vita, che ci permettono di stare meglio. Allora, la domanda di oggi quindi è: come vi sentite? C'è qualcosa che avete notato nella vostra quotidianità? Parliamo di respiro, parliamo anche di tristezza, parliamo di energia, parliamo di piccoli dolori. 800 24 00 24, noi qui vogliamo imparare a stare bene, a continuare a stare bene, perché no, anche un po' meglio. Ma molti di noi si sono avvicinati alla medicina tradizionale cinese attraverso l'agopuntura. No, non vuole medicina per lei, non fa male. Ma io sto male, signorina mia, c'ho l'ulcere duodenale, fegato a pezzi, mi vedevo mettere, scusi. Io orientale. Noi orientali, buon rimedio contro ogni male del corpo. Ora, con l'agopuntura, tu non più sentire malani. Questa spilletta fra i capelli mi piace proprio a me. Tu senti le male? No, sento solo un solletico a livello epidermico. Questo punto molto stimolante per zona molosa. Che simpatico sto coso, sembra un rinoceronte. Mi sento tutto uno strano rimescolamento. Vedrai i tuoi malanni finiti, questa cura molto buona. Molto buona veramente, è buona. Tutto bene? Vista perfetta, stomaco, fegato, tutto a posto. Io avevo detto medicina orientale. Tu stai rilassato? Era Lino Banfi nel film Sabato, Domenica e Venerdì, un film in 3 episodi del 1979. Questo spezzone è tratto dal primo episodio, Sabato. Noi siamo pronti per andare a sentire i mercati, ma in linea con noi abbiamo il professor Lorenzo Moio all'Università degli Studi di Milano, Istituto Mario Negri, revisore Cochrane Italia. Buongiorno professor Moio. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. A proposito di agopuntura, anche la comunità scientifica l'ha studiato e tra poco, dopo i mercati e il meteo, il professor Moia ci racconterà, alla luce delle revisioni Cochrane, che cosa dicono gli studi. 800 24 00 24, la domanda di oggi è: come state? Chiamateci. Essere e benessere. Come state? Noi siamo capaci di occuparci della nostra salute, del nostro benessere? Ne stavamo discutendo proprio con il dottor Corradini, in linea abbiamo anche il dottor Carlo Gargiulo e il professor Moia, perché la medicina tradizionale cinese, dottor Corradin, ci aiuta a prenderci carico della nostra salute, quindi di ascoltare il nostro corpo. Esattamente questo, ho visto un po' di domande che gli ascoltatori ci hanno fatto, e sicuramente l'agopuntura può fare diverse cose, può aiutare diverse cose, del resto lo fa anche la medicina occidentale. Il punto però essenziale era proprio questo: ascoltare questi campanelli di allarme che si accendono per renderci conto, per farci carico della nostra vita e per apportare quelle piccole modifiche che possono avere un'importanza determinante nella qualità della vita di ora, del nostro qui e ora e anche nella prospettiva di vita. Dottor Gargiulo, questo è vero, noi tendiamo ad andare dal medico e rovesciargli tutti i nostri problemi perché speriamo che abbia la bacchetta magica, il farmaco per curarci, no? E poi magari siamo i primi a trascurare il nostro stile di vita. Esatto, esattamente. Quindi c'è un'educazione anche al paziente che il medico deve fare. Certo, è fondamentale perché spesso noi scarichiamo sulla medicina, sul farmaco la soluzione del problema, quando in realtà il problema è a monte. Quante volte mi capita il paziente che vuole il rimedio per la tosse e magari non vuole smettere di fumare, o il rimedio per il diabete e non vuole dimagrire e perdere di peso. Ecco, è importante che noi impariamo a convivere bene con il nostro corpo, impariamo a gestirlo nel modo migliore, soprattutto evitando abitudini voluttuarie dannose e cercando di prediligere quei percorsi virtuosi, quella dieta nel senso pieno e completo del termine, che significa attività fisica, movimento, ma contemporaneamente un'alimentazione sana, un'alimentazione a insomma dobbiamo metterci in gioco, siamo, no? Siamo i primi responsabili. Professor Moia, andiamo alla Cochrane. Abbiamo visto che l'agopuntura, che molti dei nostri ascoltatori conoscono, di cui mi chiedono info, è stata studiata attentamente dalla comunità scientifica. Una revisione Cochrane, che cosa dice a proposito? Beh, pur essendo diciamo una tecnica millenaria che quindi è conosciuta fin dall'antichità, in realtà da un punto di vista scientifico è invece qualcosa di molto più giovane, cioè sono iniziate le ricerche scientifiche sperimentali non da moltissimo, e le evidenze ci dicono che è sicuramente una tecnica efficace in, per esempio nel mal di schiena, nel prevenire gli attacchi di emicrania, in quelle forme di cervicalgia, di male al collo, e in questi casi può essere un rimedio spesso in aggiunta alle altre terapie ed ha un beneficio breve, ma che ha un effetto, come dire, il massimo beneficio è immediatamente dopo il trattamento. E poi ci sono una serie di altre malattie in cui l'agopuntura si sta studiando e ancora non sappiamo esattamente se sia efficace o meno, cioè non possiamo escludere l'efficacia, ma ancora non possiamo dire che è una arma potenzialmente utile, come in alcune malattie croniche come l'asma, l'artrite, certo, reumatoide, nell'aiutare a smettere di fumare. Quindi voi siete al lavoro. Grazie professor Moia, abbiamo sottolineato l'effetto antalgico degli aghi, assolutamente provato, e poi no, stanno lavorando per noi, ma sempre più si affianca un modello che vuole affiancare l'agopuntura, la medicina tradizionale cinese, alla medicina ufficiale, proprio diventa complementare, non alternativa, vero? Assolutamente sì, le medicine non sono alternative l'una all'altra, dovrebbero essere complementari, e la capacità di interagire l'una con l'altra per un obiettivo comune, che è quello di far star meglio le persone e, permettimi nuovamente di ricordarlo, per aiutare le persone a farsi carico della propria vita. Miriam, dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Ci racconti, Miriam, la domanda di oggi è: come stai? Allora, e cosa fai? Sto bene, devo dire che da 3 mesi ho smesso di prendere il caffè il pomeriggio e devo dire che ne ho avuto dei benefici. Sì, sì. Però ultimamente sarà un paio di settimane, sì? Mi capita una cosa un po' anomala, nel pomeriggio verso le 5 comincio a sbadigliare e comincio ma di continuo, tant'è che mia madre che mi sta vicino mi dice: ma la smetti di sbadigliare, continui, c'hai il sonno. In realtà non ho sonno e poi la sera, contrariamente a quanto succedeva prima, magari riesco a stare più sveglia. Allora non so se allora io giro la magari è un segnale che ti dovrebbe, secondo l'indicazione che ci ha dato il dottor Corradin, supportato dal dottor Gargiulo, dirti: Miriam, un attimo, che cosa sta succedendo, che cosa devo rivedere, come posso prendermi cura di me, dottor Corradin? Allora, una delle caratteristiche, ovviamente si tratta di un piccolo sintomo che dal punto di vista medico non ha particolare importanza, però in medicina cinese tutto ha importanza. Per comprenderci, già nel IV secolo a.C., lo ricordo, venivano descritto un ritmo circadiano nella circolazione energetica lungo i vari meridiani. Dalle 1 alle 3 è in particolare attività il meridiano cosiddetto dell'intestino tenue, fra le 3 e le 5 è particolare attività il meridiano della vescica e fra le 5 e le 7 in particolare attività un meridiano particolare chiamato quello del rene. Sì. Quindi lo sbadiglio è un gioco, eh? E potrebbe essere da un lato l'espressione di una iniziale alterazione di questo meridiano, dall'altro è probabilmente l'incapacità di una funzione specifica, che è una funzione centrale digestiva, di terminare completamente l'ultima fase della digestione. Miriam, una donna ci chiama, ci sono tanti ascoltatori, daremo voce, però abbiamo tante cose da raccontarci, voi continuate a chiamarci e noi daremo voce alle vostre richieste. E l'agopuntura è molto amica della donna e in linea con noi abbiamo il professor Allais, è responsabile, pensate, del centro cefalee della donna all'Università di Torino e del servizio di agopuntura in ginecologia ostetricia. Inoltre è presidente della Società Italiana di Riflessoterapia, agopuntura e auricoloterapia. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno. Professore, l'agopuntura, io ho detto, è amica della donna, non vuol dire, cioè, è di parte la mia cosa, ma insomma, perché gli aghi alle donne fanno bene? Beh, innanzitutto le donne sono delle grandi utilizzatrici di agopuntura, cioè la fanno di più degli uomini, hanno, diciamo, una maggiore tendenza a farla, perché questa medicina, essendo una grande medicina di riequilibrio, come è già stato citato nella trasmissione, regolarizza anche i loro cicli, quindi sì. Noi trattiamo spesso donne che hanno problemi di alterazione del ciclo mestruale, problemi di donne che sono andate in menopausa e hanno le vampate, problemi comunque di donne che hanno magari anche problemi in gravidanza, sì. Cioè, non so, con l'agopuntura si può far ritornare il latte a una mamma che sta iniziando ad allattare e poi smette di allattare, ed è una cosa fisiologica che allatti, quindi l'agopuntura le ridà forza e la fa funzionare, come anche si usa in applicazioni molto particolari, tipo il rivolgimento fetale, cioè il bambino che è in posizione podalica si può rivoltare con un solo punto di agopuntura e fare evitare il cesareo, quindi la donna ha molte applicazioni specifiche. Ecco, e ha più sensibilità, dottor Gargiulo? Beh, sicuramente la donna è anche molto più attenta alla salute, quindi anche per questo più facilmente si rivolge all'agopuntura, e poi un po' la donna ha anche un po' più di paura nei confronti dei medicinali, dei farmaci in genere, quindi questa ricerca di sistemi efficaci ma contemporaneamente non basati sulla farmacologia e sulla chimica probabilmente trova nella donna un terreno più fertile. 800 24 00 24, tra poco parleremo proprio di aghi e di, abbiamo detto, l'effetto antalgico e di mal di testa. Il professor Allais e la sua equipe hanno svolto delle ricerche, che cosa avete scoperto e soprattutto che cosa avete validato. A tra poco, dopo la viabilità. Essere e benessere. Professor Allais, cefalea. Spesso la cefalea, noi donne soffriamo di mal di testa, ma gli aghi, abbiamo detto, funzionano. Come e che cosa avete scoperto e che cosa avete dimostrato? Ma dunque, noi abbiamo lavorato molto in ricerca, essendo un centro universitario, proprio sull'emicrania nella donna. Una delle cose che abbiamo studiato molto è stato il rapporto fra l'efficacia dell'agopuntura nella profilassi dell'emicrania rispetto ai farmaci di profilassi. Alcuni anni fa abbiamo pubblicato sulla principale rivista americana delle cefalee uno studio dell'agopuntura verso la flunarizina, che è uno dei farmaci più noti in Europa per la profilassi dell'emicrania, e abbiamo dimostrato che l'agopuntura ha la stessa efficacia della flunarizina ma ha molti meno effetti collaterali, anzi dopo 2 mesi di agopuntura le donne stanno anche un po' meglio, quindi questa è stata una ricerca importante accettata da tutta la letteratura scientifica internazionale. E poi mi chiedeva cosa avete validato, essendo anch'io un membro della Cochrane e facendo la Cochrane per le cefalee, sono uscite le ultime 2 Cochrane l'anno scorso di cui ho fatto parte, dove si è dimostrato che l'agopuntura è efficace nella profilassi dell'emicrania e anche nella cefalea di tipo tensivo, l'altra grande forma di cefalea diffusa nella popolazione. Allora, professore, io la prenoto già per una puntata tutta dedicata al femminile. Va bene, grazie. E intanto, come presidente della Società Italiana di Riflessoterapia, Agopuntura e Auricoloterapia, quale consiglio si sente di dare prima di salutarci? Ma direi che è già emerso il consiglio, cioè l'agopuntura non è una terapia alternativa, può essere assolutamente complementare, può appoggiare la persona nel suo benessere anche con i farmaci, non è necessario opporle. L'importante è il risultato terapeutico. L'agopuntura è un ottimo servizio che si può fare alla donna e a tutti, e si può farlo anche insieme ai farmaci senza nessuna contrapposizione per regolarizzare l'organismo. Grazie professor Allais, a presto. Grazie a voi. Buongiorno. Lidia ci chiama da Grosseto, buongiorno Lidia. Buongiorno. Allora, posso spiegare certo, il problema? Lidia, siamo qua per lei. Dunque, io praticamente ho passato un periodo un po' difficile emotivamente, diciamo per motivi familiari, e ho risolto diverse cose, però mi è rimasta praticamente un'accelerazione dei battiti cardiaci. Sì. Che si presenta in momenti strani, anche voglio dire senza motivo apparentemente. Per esempio, anche la sera quando vado a letto comincia il cuore a battermi in maniera forte, così un po' anomala, e non riesco a dormire, magari, insomma, ecco, è una cosa un po' sì, quando ti senti il cuore che insomma in subbuglio. Due letture, vediamo se hanno dei punti in comune o sono lontani. Dottor Corradin, poi sentiamo il dottor Gargiulo. È chiaro che nelle situazioni emotive il cuore, sia alla lettura occidentale che alla lettura orientale, il cuore è innervato da tutta una serie di nervi che quindi è assolutamente inevitabile che risponda a questo. In medicina cinese si può fare molto. Questa è una situazione tipica, se queste palpitazioni danno fastidio, rivolgersi a un agopuntore che tratta alcuni punti di alcune linee energetiche, in particolare del ministro del cuore, del fegato, avrebbe lo scopo contemporaneo, da un lato di togliere questo piccolo fastidio e dall'altro di riequilibrare lo stato energetico e lo stato emozionale. Dottor Gargiulo, vuole aggiungere o le passo Tiziana dalla provincia di Roma? No, io vorrei soltanto aggiungere che probabilmente mi parlava di un disturbo che compare la sera quando va a letto, quindi in posizione sdraiata. Io darei un'occhiata che non ci sia qualche problema a livello dello stomaco, perché basterebbe una piccola ernia iatale, un po' di reflusso gastroesofageo, anche una bolla gastrica un po' più grande a creare un problema spingendo sul cuore e quindi dare una tachicardia riflessa. Forse provare con un digestivo qualcosa che aiuti lo svuotamento gastrico. Se passa la tachicardia, a quel punto abbiamo risolto il problema. Voilà, Tiziana, dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per queste splendidi consigli che ci date. Grazie Tiziana, mi dice Filippo Aureggi di abbassare la radio. Ah. Perché lui c'ha questo orecchio che sente tutto. Grazie Tiziana, ci racconti. Pronto? Siamo qua. Perfetto, Tiziana, andiamo meglio. Ok, allora io tanti mesi che sto combattendo con un problema, cioè ho delle forti pulsazioni alla testa, sono andata da odorini, sono andata da cardiologi, perché io sento anche dei suoni alle orecchie. Allora, chi dice che sono acufeni? Chi dice che potrebbe essere un fatto di circolazione, e c'è chi dice che è una postura cervicale, mi potrebbero provocare queste pulsazioni. Però io ho una cosa da aggiungere, che quando io stringo i denti queste pulsazioni si attenuano, come io rilascio la muscolatura, sì, diciamo, le avverto di più queste pulsazioni e sinceramente non so più cosa fare. Anche perché più medici si sentono, dottor Gargiulo, più pareri e più confusione viene adesso. Posso non fare per una dire... domanda alla nostra ascoltatrice? La deve. Notte ti grigna i denti? Un pochino sì. Infatti, probabilmente c'è un problema all'articolazione temporomandibolare, il fatto che la compressione nel momento in cui stringe i denti sente meno il fastidio e quindi il digrignare i denti la notte potrebbe essere questa la causa dei suoi disturbi, anche se poi i rumori di fondo, gli acufeni li richiamano molto. Io proverei con un bite, un semplicissimo bite da utilizzare la notte, cercare di digrignare meno i denti e quindi provare a vedere se riporta un po' in posizione l'articolazione. L'altra cosa interessante è questo discorso della cervicale, sicuramente la postura, quindi migliorando la posizione della colonna cervicale si potrebbe anche spostare un pochino in avanti la mandibola e questo potrebbe darle un giovamento. Dottor Corradin, noi abbiamo sottolineato, lei ci ha introdotto nella medicina tradizionale cinese e molti ascoltatori sono proprio affascinati da questo rapporto che c'è tra il nostro stato emotivo e anche la salute dei nostri organi. Certo. E dal racconto e della nostra ascoltatrice, lei che cosa ha raccolto? Beh, bisognerebbe avere alcuni altri dati ancora. Certo. Prima di rispondere volevo solo fare una piccola osservazione. Si diceva proprio questo, quello che diceva lei pochi minuti fa. In funzione di come osserviamo un problema abbiamo delle risposte diverse. Quindi da posturologo, se io dovessi rispondere alla signora, sicuramente c'è da controllare la postura. Da dentista sicuramente controllare e mettere un bite, che è molto probabile. Tutto ciò che compare particolarmente verso la fine della serata e l'inizio del mattino è quasi sempre dovuto al digrignamento dei denti notturno. Questo proprio per dire che tutto dipende dalla posizione che assume l'osservatore nell'osservare. Il medico osservatore, in funzione della propria esperienza e della propria cultura, propone ovviamente una soluzione. Ritornando al punto che era anche il tema della trasmissione, le emozioni modificano lo stato energetico complessivo. Per dirla in modo diretto e semplice. Per dirla in poche frasi, in poche parole. Il nervosismo, la collera, era una sorta, veniva chiamato un vento interno, perché come il vento determina una risalita verso l'alto dell'energia. L'agitazione disperde l'energia, una sorta di calore, come se fossimo costantemente all'interno del calore, questo disperde in ogni dove la nostra energia. Il pensiero ricorrente blocca l'energia al centro, veniva chiamata umidità interna. La tristezza blocca l'energia e la fa scendere dal torace verso le parti inferiori del corpo, veniva chiamata secchezza interna, e molte tossi secche, quindi quelle tosse stizzose che capitano frequentemente dopo forme virali, sono molto spesso legate a questo tipo di sensazione. E la paura, infine, che era il sentimento più descritto nei classici, è una sorta di freddo interno. Quando un soggetto diventa molto freddoloso, quando è pauroso diventa molto freddoloso e blocca la circolazione in ogni dove nel corpo, particolarmente fra la parte alta e la parte bassa. Grazie dottor Corradin. Abbiamo Fabrizio da Milano, che sei rapidissimo. Fabrizio. Sì, buongiorno. Non so la rapidità, quale c'è una correlazione tra rapidità e organo, ma magari ne parliamo un'altra volta. Fabrizio. Cercherò di essere rapidissimo. Sì. Mi succede questo: da un annetto a questa parte ho dei periodi dell'anno, possono essere di 2 o 3 giorni, intervallate da situazioni invece dove sono assolutamente normalissimo e regolarissimo, dove ho delle palpitazioni molto forti, ed è la prima volta nella mia vita, da ex atleta, quindi ho portato anche delle volte degli sforzi molto intensi, però dove sento il cuore che batte in maniera un po' disordinata, sì. Diciamo, non è quella pulsazione data da un'ansia o da una paura dove il cuore batte in maniera regolare. Allora, volevo sapere se questo può essere un campanello di allarme, e se sì, che rimedi ci sono? Allora, noi siamo veramente in chiusura perché abbiamo 30 secondi e trattare un caso, ma una parola per dottor Gargiulo, un'indicazione a Fabrizio rapida che può essere? Se il cuore batte in modo disordinato, io consiglierei un holter delle 24 ore, un holter cardiaco, quindi una misurazione e valutazione del cuore sull'arco di 24 ore. Poi c'è tutto, fatto questo, dottor Corradin, si può procedere? Sicuramente, fatto questo e quindi escluso qualsiasi problema organico o anche funzionale, quindi il controllo della ionemia e via dicendo, fatto questo si può ricorrere all'agopuntura o comunque a tecniche più dolci. E comunque, in ogni caso, oggi abbiamo imparato, prendiamoci cura di noi stessi, non deleghiamo sempre agli altri. Grazie al dottor Corradin, al dottor Carlo Gargiulo per essere stato con noi, a voi che ci avete seguito, continuate a farlo, scriveteci, a domani dopo il GR delle 11, buonissima giornata. Essere e benessere.